24 mattino. Buongiorno da Laura Bettini, buon anno, ben ritrovati per 24 mattino. Ora per la rassegna stampa cederemo il microfono a Giulia Crivelli tra pochissimo. Vi ricordo però che poi più avanti nel corso della mattinata alle 8.30 ci sarà come sempre lo spazio per Bianco o Nero. Di cosa parliamo oggi? Di soldi privati per sostenere i servizi pubblici. Chiediamo la vostra opinione su questo tema. È sempre più diffuso ormai chiedere ai privati di sostenere economicamente i servizi pubblici in cambio ovviamente di spazi pubblicitari. Siete d'accordo o no? Per votare c'è il nostro sito internet. Adesso il microfono a Giulia Crivelli. In primo piano. Buongiorno a tutti. 3 gennaio, oggi primo lunedì con i giornali di nuovo diciamo a pieno regime. C'è stato la pausa un po' del Capodanno, il primo di gennaio non abbiamo avuto giornali, ieri era domenica, quindi oggi si torna con la cronaca in primo piano. Scorriamo magari i titoli principali delle prime pagine dei principali quotidiani italiani e poi vediamo gli approfondimenti o gli articoli che magari ci sono su un giornale e non su un altro, gli argomenti più che altro. E il Corriere della Sera, Egitto, la protesta dei cristiani, questo è il titolo di apertura, il Papa condanna la strage e poi l'imam appunto egiziano dei cristiani copti non ci difese in Iraq. Questa è l'apertura un po' di tutti i quotidiani. Ci sono naturalmente molti modi di interpretare questa notizia, sapete l'attentato che c'è stato dove hanno perso la vita decine di cristiani. L'aspetto più particolare lo mette forse in evidenza Repubblica, che a sua volta titola Egitto, tensione tra Chiesa e Islam, perché c'è un'interpretazione, anche un intervento della Casa Bianca sulla questione. L'allarme della Casa Bianca, questo è il retroscena raccontato dal corrispondente di Repubblica Federico Rampini a pagina 4 della Repubblica. Obama teme il referendum e nuovi attacchi sanguinosi, approva generale per il Sudan. Questo è secondo Obama la strage in Egitto. La strage in Egitto potrebbe precedere un'altra carteficina dopo il voto sulla secessione Nord-Sud. Questa è una questione, quella del Sudan, che non trova tantissimo spazio, ma è in realtà una delle guerre che potrebbe accadere presto nel mondo. Uno dei punti più caldi del mondo in questo momento è appunto il Sudan, dove da domenica 9 gennaio si vota per questo referendum che potrebbe spaccare il paese in due, ma spaccarlo non in modo pacifico, ma appunto preludere a una guerra. Secondo il portavoce di Hillary Clinton, che è il segretario di Stato, cioè l'equivalente del ministro della difesa americano, sarà la più grande emergenza per la politica estera del 2011. Questo è un approfondimento che appunto ha Repubblica. Poi naturalmente ci sono tutte le reazioni a questa strage di cristiani che c'è stata in Egitto. Per esempio Repubblica riporta con grande spazio quella del nostro ministro degli esteri Franco Frattini: cristiani nel mirino, intervenga la UE. L'appello di Frattini: l'Italia chiederà all'Europa una risposta forte contro le violenze religiose. Questa quindi era l'apertura di Repubblica. L'apertura della Stampa, anche qui di nuovo ripeto, è l'apertura, tutti i giornali aprono su questo attentato che c'è stato in Egitto e su, in particolare sulle parole del Papa. La Stampa: il Papa, un attacco vile, scontri in piazza al Cairo. L'imam replica a Ratzinger: ingerenza inaccettabile. Quindi la Stampa spiega, dopo l'attentato di Alessandria che ha fatto, ho detto prima, decine di vittime, sono 21 esattamente, tra i cristiani sale la tensione e anche i copti scendono in piazza contro la polizia egiziana accusata di non tutelarli, e le manifestazioni diventano scontri. Quindi come sempre, come spesso accade dopo un attentato, ci sono delle conseguenze subito sull'ordine pubblico, perché appunto ci sono delle manifestazioni. Anche in questo caso la Stampa sottolinea il rischio del Sudan con un'intervista curata da Maurizio Molinari a pagina 2, e ora attenti alla scissione del Sudan. In questo caso perché oltre a quello che ipotizzano gli americani, cioè un ruolo di Al-Qaeda, ci può fare questo parallelo? Perché in realtà questa scissione, questo referendum è appunto un referendum che tra l'altro potrebbe dividere il nord del sud del paese, dove le maggioranze religiose sono rispettivamente musulmani e di cristiani. Un altro argomento su tutte le prime pagine dei giornali è naturalmente l'estradizione negata dal Brasile al terrorista Cesare Battisti. Il Brasile dice ancora no all'Italia, spiega per esempio in prima pagina il Corriere della Sera, e anche in questo caso c'è un approfondimento particolare che mi ha colpito, che è quello della Stampa, che richiama in prima pagina: Brasilia conferma no all'estradizione. E poi a pagina 7 c'è un dossier curato da Alessandro Barbera: sono in bilico contratti per 10 miliardi. Quando si sente parlare, lo abbiamo sentito fare negli scorsi giorni, di boicottaggio, ecco, per esempio potrebbe esserci un boicottaggio commerciale, si potrebbe ipotizzare. Ma che cosa significa, che cosa significherebbe boicottare i rapporti economici con il Brasile? Lo spiega appunto la Stampa in questo dossier. In bilico contratti per 10 miliardi, c'è una tabella che riassume l'interscambio commerciale tra l'Italia e il Brasile, che è molto alto. Sapete, il Brasile è una delle poche economie del mondo che continua a crescere, fa parte dei cosiddetti BRIC, quel blocco Brasile, Russia, India e Cina, i paesi che crescono di più, mentre l'Occidente, sappiamo, arranca. E infatti, per esempio, la Stampa ricorda in questa pagina un continente che cresce a due cifre, il record del Brasile. Il Brasile ha già lanciato la sua sfida al mondo: diventerà entro il 2016, se non prima, la quinta potenza economica mondiale. Ci sono anche 4 focus, sempre in questa pagina di dossier, per capire che cosa sono veramente gli affari che l'Italia ha con il Brasile. Per esempio Fiat, più di 4 miliardi in nuovi investimenti. Abbiamo visto settimana scorsa Marchionne proprio in Brasile per stringere la mano all'ex presidente Lula, che adesso domenica ha lasciato lo spazio alla nuova presidente del Brasile, Dilma Rousseff. E Marchionne era appunto in Brasile per siglare nuovi accordi commerciali e questi miliardi di investimenti in nuove fabbriche. Poi c'è Pirelli, un terzo dei ricavi grazie agli pneumatici. Poi c'è Telecom, Team Brasil supera i 47 milioni di clienti. E infine, ricorda la Stampa, c'è Impregilo, corre sul business delle autostrade. Dal Sole 24 Ore, la prima pagina del Sole 24 Ore, il Sole 24 Ore del lunedì sceglie di aprire sugli scenari del 2011 per le PMI, le piccole e medie imprese. Prove di ripresa per le PMI, poi nel sommario un virgolettato di Boccia, che è il responsabile di Confindustria appunto per le piccole e medie imprese, che dice: occorre mettersi in rete per crescere e trovare nuovi mercati. Ci sono due pagine su questo argomento con le 5 nodi, secondo il Sole 24 Ore, gli esperti del Sole 24 Ore, da tenere d'occhio nel 2001, cioè l'accesso al credito. Sappiamo che questo è stato un problema per tutto il 2010, l'accesso al credito soprattutto per le piccole e medie imprese. Le materie prime, vedremo anche su altri giornali come c'è un allarme materie prime anche per il tessile, in particolare per la lana e per il cashmere. Dal greggio al grano, quotazioni record e altri rally in arrivo. Poi c'è l'energia, per le bollette di luce e gas ritocchi contenuti, dovrebbe essere intorno, questi sono dati ricavati dalle decisioni dell'autorità dell'energia, intorno all'1,3% l'incremento dei prezzi del gas per il primo trimestre 2011. Poi naturalmente si vedrà, perché sappiamo che i prezzi delle materie prime sono molto volatili, difficilissimo fare delle previsioni appunto già più a lungo termine di 3 mesi. Poi quarto focus, i mercati valutari, euro, dollaro e yen iscritti al concorso di bruttezza, così ci spiega Riccardo Sorrentino. E poi si ipotizza quello che potrebbe essere il cambio tra virgolette giusto tra euro e dollaro. Secondo diverse ricerche è il valore teorico dell'euro sul dollaro, possibile obiettivo sempre nel primo trimestre. Infine i paesi emergenti, quelli che continuiamo a chiamare paesi emergenti, ma come spiega Micaela Capellini, il Made in Italy scopre 6 mete oltre Cina e India, che sarebbero Egitto, Vietnam, Brasile, Turchia, Corea del Sud e Polonia. Dice Micaela: segnatevi questi nomi, saranno le 6 stelle polari che nel 2011 guideranno gli investimenti delle PMI italiane verso i paesi emergenti. Un'altra pagina sempre di approfondimento, dicevamo l'anno della svolta, prove di ripresa graduale nel mondo. Abbiamo detto sono i paesi emergenti quelli su cui puntare, però c'è anche questa mini ripresa, o chiamiamola ripresa lenta o ripresa con nuovi ritmi. Tutti dicono che dobbiamo abituarci, soprattutto per i paesi occidentali, per le economie occidentali, a un altro ritmo, non si torna più ai valori pre-crisi. Buona chance dai consumi USA e dall'export verso la Germania. E poi Enrico Netti racconta 8 esperienze diverse di 8 imprenditori appunto di piccole e medie imprese, investimenti nuovi target, ricerca le ricette per scacciare la crisi in queste 8 ricette diverse. Infine, dicevamo, l'intervista a Vincenzo Boccia, che è il responsabile di Confindustria per le piccole e medie imprese, che dice appunto: mettersi in rete è la via per trovare nuovi mercati. Il problema dimensionale si vince anche, perché quello delle PME è per definizione un problema di dimensioni, si vince anche mettendosi appunto in rete. L'obiettivo del presidente della piccola industria di Confindustria è uno solo: crescere ed essere forti. E poi ipotizza questo sbocco a sud, in dirittura d'arrivo un accordo con le Confindustrie di Algeria e Marocco. E poi anche lui torna sul problema del credito: è necessario puntare a strumenti di finanziamento di maggiore qualità. E ci risentiamo ora tra pochi secondi, anzi un paio di minuti, e diamo spazio a qualche altra, a un piccolo break pubblicitario. In primo piano. Eccoci di nuovo, eravamo rimasti alla prima pagina del Sole 24 Ore. Vi segnalo, sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore e sempre sul tema cosa ci aspetta nel 2011, un articolo di Paola Bottelli: tendenze nella moda, dominerà il rosso caprifoglio. C'è una fotografia di una specie di novella cappuccetto rosso, appunto di rosso vestita, e all'interno poi in realtà Paola ci spiega che non è soltanto un fatto di colore. Secondo lei sono 10 trend che dobbiamo tenere, i temi che dobbiamo tenere sotto controllo nel 2011. Il boom del fast fashion, sappiamo quella viene chiamata fast fashion, cioè moda veloce, identificata soprattutto con i colossi come H&M e Zara. Quindi questo ancora una volta l'anno appunto di questa moda così riassortita così velocemente nei negozi e soprattutto a costi contenuti. Poi gli stilisti da monitorare, quelli promossi dalla Camera della Moda Italiana, e il focus sulla grande Cina naturalmente, e ancora molti altri temi appunto a pagina 23 del Sole 24 Ore, il decalogo della moda che verrà. Ma a proposito di colore rosso, e sempre a proposito di moda, per alleggerire un po', vi segnalo dalla Stampa, pagina 25, nello spazio delle lettere e dei commenti, la rubrica che ha, si chiama Minima, che ha Marco Belpoliti, uno scrittore bravissimo, secondo me. Il suo ultimo libro sulla vergogna, per esempio, edito da Guanda, è molto interessante. Questa rubrica si intitola oggi Sotto il vestito, il cine panettone. Ci dice: una delle cose che più mi colpisce nelle vetrine d'intimo femminile durante il Natale alla fine d'anno, negozi che non conoscono recessione e crescono di numero di anno in anno, è la lingerie di colore rosso. E qui c'è appunto una piccola dissertazione giocosa su questa predominanza del rosso, non soltanto nel 2011, ma spesso appunto nelle vetrine natalizie, non solo di lingerie. Ma torniamo alle prime pagine dei giornali, andiamo sulla Gazzetta dello Sport. Pausa campionato in questi giorni, però mercoledì si riprende, e la Gazzetta dello Sport titola Pato sì, Cassano quasi. E il Milan in questo momento è ancora a Dubai, è al caldo, e ieri il Milan ha sfidato la squadra dove gioca Fabio Cannavaro, ha vinto 2-1 con gol di Seedorf e Beretta. Il test di Dubai dice che il brasiliano sta bene, cioè Pato, e che l'ex doriano, cioè Cassano, deve crescere. Allegri, l'allenatore, dice sulla strada giusta. Poi vi segnalo dalla Gazzetta dello Sport due pagine intere dedicate all'Inter: mille tifosi entusiasti, Leonardo apre le porte dell'allenamento. Ieri infatti il nuovo allenatore del Milan, dell'Inter scusatemi, ha aperto appunto le porte della Pinetina, che è dove si allena l'Inter. Non è una cosa così usuale, normalmente gli allenamenti avvengono a porte chiuse, e però dice la Gazzetta: euforia Leo, invasione di tifosi, l'Inter apre le porte. L'Inter naturalmente giocherà giovedì, il giorno dell'Epifania, contro il Napoli qui a San Siro. E a proposito di San Siro, la Gazzetta ricorda: nuovo stadio dell'Inter, l'individuata l'area è vicino a San Siro. Sapete che c'è questo progetto per un nuovo grande stadio che potrebbe sostituire quello storico di San Siro, però è ancora appunto lontano da venire. Ci spiega la Gazzetta che almeno potrebbe essere stata individuata l'area. Ma passiamo al Messaggero, la prima pagina del Messaggero, il quotidiano romano per eccellenza. Non abbiamo toccato l'argomento politico perché mi sembra ancora uno scenario molto confuso. Qui però si ipotizza questo, che è una notizia che non ho visto sugli altri giornali: Berlusconi, il piano per il nuovo partito. Secondo il Messaggero ci sarebbe già un progetto post PDL, cioè post Partito della Libertà, in fase avanzata. Dovrebbe chiamarsi Popolari, come il gruppo, il grande gruppo a cui appartiene il PDL al Parlamento Europeo, che è appunto il gruppo dei Popolari. E sul governo, scrive il Messaggero, c'è una maggioranza divisa, ultimato della Lega, questo viene riportato anche da altri giornali, federalismo entro gennaio o a marzo si vota. All'interno del Messaggero, a pagina 5, appunto questo approfondimento, addio PDL, arrivano i popolari, Berlusconi prepara l'ennesima svolta, sarebbe in fase avanzata il progetto del nuovo partito, in squadra soltanto voti giovani, scrive il Messaggero. La prima pagina del giornale, l'apertura è ancora sulla strage in Egitto e sulla reazione del Papa. L'Islam minaccia il Papa. Benedetto XVI condanna l'attentato e teme un piano mondiale contro i cristiani, ma l'imam sunnita lo zittisce, parole inaccettabili. Ecco cosa hanno portato 10 anni di buonismo miope. Fin dal sommario si capisce la posizione molto forte del giornale, che tra l'altro Repubblica, quella che il giornale chiama la profezia della Fallaci, che diceva ci vogliono tutti morti. Forse ricorderete il libro La rabbia, anzi lo ricorderete sicuramente tutti, il libro La rabbia e l'orgoglio, scritto da Oriana Fallaci nel 2001, anticipato dal Corriere della Sera, da allora, che pubblicò una pagina intera, forse anche di più, anzi ricordo più di una pagina, anticipando appunto questo libro, e dove Oriana Fallaci faceva appunto questa profezia, diceva che gli islamici comunque vorrebbero gli occidentali, o soprattutto i cristiani, tutti morti. Sulla questione della politica c'è anche sul giornale quello che viene chiamato un retroscena, quell'asse Giulio Lega che il Cavaliere vuol fare saltare. E l'editoriale di Nicola Porro, vice direttore del giornale, tra Berlusconi e Tremonti c'è il fisco di mezzo. Sappiamo quanto in effetti le questioni fiscali abbiano, quante tensioni abbiano creato all'interno del governo. Ricordate anche l'ultimo scontro con Stefania Prestigiacomo, ma in generale appunto le questioni fiscali ed economiche, cioè quelle che fanno capo al ministro dell'economia Giulio Tremonti, abbiano spesso causato delle tensioni, e quindi il giornale spiega: Tremonti, Maroni, Calderoli, Maroni ministro dell'interno, Calderoli ministro delle riforme, l'asse che Silvio vuol far saltare. Telefonata a Berlusconi Bossi, il Cavaliere irritato per il fronte interno, favorevole alle urne, il senatore fa il pompiere, il federalismo passerà, a marzo non ci saranno elezioni. Per questo, vedete, parlavo di confusione, perché non si capisce appunto se questa minaccia di elezioni anticipate della Lega sia concreta o magari sia appunto soltanto un retroscena. Vedremo, dobbiamo aspettare. Torniamo alle prime pagine alle prime pagine, Il Giorno, che titola I nuovi martiri. C'è una foto di un ragazzo presumibilmente scattato in Egitto, comunque ad Alessandria d'Egitto, per questo i nuovi martiri, appunto, quindi di nuovo il richiamo all'attentato, cristiani al massacro. Egitto, qui addirittura dice Il Giorno, abbiamo visto sulle altre pagine si parla di queste manifestazioni di piazza. Il Giorno dice addirittura Egitto sull'orlo della guerra civile dopo la strage alla messa, paura di altri attacchi, e l'Islam critica il Papa. Ma è a pagina 2 e 3 poi in realtà c'è un dossier che non ho visto con questa precisione sugli altri giornali, sugli immigrati, la questione degli immigrati, quanti sono, perché sì, sapete che ci sono in ballo 86.580 ingressi possibili con un nuovo decreto flussi, e quindi il giornale spiega ai migrati la grande corsa, questo famoso click day, perché sapete che questo decreto flussi prevede di aggiudicarsi il permesso, l'ingresso di soggiorno su internet, quindi il grande click per questo, nuovi ingressi per i lavoratori, e ci sono una serie di numeri interessanti: 11.500 le conversioni dei permessi di soggiorno di studio e di chi ha origini italiane, 52.080 le assunzioni di lavoratori provenienti da paesi con accordi già sottoscritti. Il decreto flussi scatta il 31 di gennaio, e quindi per questo poi al 31 di gennaio ci si può appunto cercare di aggiudicarsi un permesso di soggiorno su internet. L'Unità, la prima pagina dell'Unità, il titolo di apertura è Commedia all'italiana. Per l'Unità è molto critica sull'atteggiamento, il riferimento è al caso Battisti, minacciato un'improbabile guerra commerciale al Brasile, e l'Unità è appunto molto critica nei confronti dell'atteggiamento del governo, perché Pino Arlacchi, per esempio, nell'editoriale parla di diplomazia degli errori. Anche su questo c'è una certa confusione, cioè questo no all'estradizione di Cesare Battisti fatto dal Brasile potrebbe essere, secondo alcuni, insomma, il frutto frutto di, una, di errori diplomatici fatti negli ultimi mesi o forse negli ultimi anni, ma sono appunto, questa è l'opinione principalmente, o almeno così, così chiara, così palese, soltanto dell'unità. Torniamo un attimo al Corriere della Sera, perché c'è un'altra notizia di oggi, è importante, ormai sono le 7.40, quindi tra un'ora e 20 minuti si apriranno le contrattazioni in borsa e ci sarà il debutto della nuova Fiat, che spiega il Corriere della Sera, ore 9, Fiat si fa in due in Piazza Affari. La borsa misura il piano di Marchionne, sapete che è prevista questa separazione tra auto, cioè tutto il business dell'auto di Fiat, e Fiat Industrial, attesa sul prezzo. Le valutazioni degli analisti finanziari oscillano, spiega Antonia Iacchia a pagina 12 del Corriere della Sera, tra 7 e 11,5 euro per il nuovo titolo. Ma il 2011, ci ricorda sempre il Corriere della Sera, sarà anche l'anno del ritorno in borsa a Wall Street del titolo Chrysler. Sapete che dopo la crisi Chrysler aveva appunto subito un delisting, cioè era stata tolta dal listino di Wall Street. Ora che i conti sono parzialmente risanati, ci sarà appunto questo ritorno a Wall Street, anche lì grande attesa per le quotazioni. Ma torniamo a un'altra questione che c'è un po' su tutti i giornali, ma ho scelto di vedere la pagina di Repubblica, però ripeto, è una notizia riportata su tutti i giornali, e Repubblica titola Iran, una nuova speranza per Sakineh. Sapete, Sakineh, la donna iraniana, Sakineh Mohammad Ashtani, che è stata accusata di adulterio e quindi, secondo la legge iraniana, verrà lapidata. C'è stata una grande mobilitazione internazionale, firme, appelli internazionali, e ora è anche qui grande confusione, non riusciamo bene a capire da qui che cosa succeda veramente in Iran, tant'è che Repubblica appunto titola l'intera pagina l'Iran di Ahmadinejad, cioè è così che vanno le cose nell'Iran di Ahmadinejad, perché Sakineh ieri ha confessato, ha fatto pubblica ammenda in televisione, si è detta colpevole, accanto a lei c'era il figlio, e poi addirittura ha annunciato di voler querelare i giornalisti occidentali che l'avevano intervistata, contribuendo a comunque a tenere viva la questione sui giornali internazionali, a fare un po' di pressione sul regime di Ahmadinejad, perché questa lapidazione, questa pena terrificante della lapidazione fosse almeno convertita, e non si sa ancora come finirà. Per ora Sakineh è in carcere, ma insomma sono tantissimi gli argomenti scelti dai quotidiani per le loro pagine interne. Ce ne sono alcuni di curiosi, per esempio sul Giornale un'intera pagina, tra l'altro è un argomento che viene trattato anche sull'International Herald Tribune, mi ha colpito questa cosa, appunto International Herald Tribune è in Italia soltanto sul Giornale, e riguarda i Tupolev, quegli aerei russi, e la fine di un incubo, titola il Giornale, basta carrette volanti, Mosca pensiona il Tupolev, bandito dai cieli europei, l'ex gioiello dell'Aeroflot, cioè la compagnia aerea dell'Unione Sovietica di sovietica memoria, potrebbe presto scomparire anche da quelli russi. Troppi i disastri in 40 anni, l'ultimo a Capodanno con 3 morti. Ma, ci dice il Giornale, c'è poco da stare tranquilli, i killer dell'aria sono ancora troppi, nel senso che questa naturalmente è una questione molto difficile dei controlli sugli aerei, che a volte appunto non è ben chiaro come vengano fatti, e quindi soprattutto negli aerei che hanno molti anni o nelle compagnie aeree che non sono proprio di primo piano, ci potrebbero essere dei rischi. A proposito di rischi, due notizie ancora di violenza sulle donne terribili vengono dal Giorno. Una a Cinisello Balsamo, violenta un'amica arrestato, cingalese abusa e rapina una connazionale e poi però è stato catturato alla stazione di Sesto. E un altro episodio, ripeto, ancora di violenza sulle donne. Marito ubriaco la rifiuta, lei lo riempie di botte a Sesto San Giovanni, un primo dell'anno litigioso, ma ricorda al Giorno, una decina le richieste di aiuto alle forze dell'ordine appunto per casi di violenza domestica. A proposito di violenza, c'è un approfondimento invece sull'unità, proprio il foglio centrale dell'unità, articoli presi da The Daily Beast, il sito di Tina Brown, soltanto su di notizie solo su internet. Elisa Griswold ci racconta la vita degli indiani d'America, che non è sempre facile, anzi secondo lei il terzo mondo si chiama America, perché appunto gli indiani hanno spesso ancora vita molto difficile, sono spesso ancora discriminati negli Stati Uniti. Ma ora lasciamo un attimo lo spazio alle notizie sul traffico e torniamo subito dopo. in primo piano. E rieccoci, e in realtà visto che siamo ancora al 3 gennaio, perciò ho ancora due notizie che riguardano il 2011. Una c'è su tutti i giornali, ma la prendo dal Corriere della Sera, ce l'hanno quasi tutti in prima pagina, è che questo anno, il 2011, sarà praticamente un anno senza ponti di vacanzieri, quindi il 2011 darà poche possibilità di partire per mini vacanze sfruttando le festività infrasettimanali. Infatti guardiamo, c'è questa illustrazione con un calendario, il 6 gennaio. Vabbè, è un giovedì, qui ancora forse uno potrebbe farlo, il 25 aprile invece è un lunedì, il 1 maggio ahimè è una domenica, il 2 giugno è un giovedì, Ferragosto è un lunedì, insomma mini ponti per questo 2011 che verrà. E a proposito di 2011, invece un bellissimo articolo sulla Repubblica, inizia in prima pagina ma occupa poi un'intera pagina all'interno, di Oliver Sacks, ricordate l'autore, neurologo americano, autore dell'uomo che scambiò sua moglie per un cappello, o tutti i libri pubblicati da Adelphi, o Emicrania, un libro dedicato appunto solo all'emicrania. Ci dice: missione 2011, impariamo a cambiare la nostra mente. Dice Oliver Sacks, vi dico, è uno dei più famosi neurologi mondiali, perciò fidiamoci, dice: i propositi per l'anno nuovo spesso riguardano un'alimentazione più sana, il frequentare di più la palestra, smettere di mangiare dolci, perdere peso, tutti encomiabili obiettivi che servono a migliorare la salute fisica. La maggior parte della gente tuttavia non si rende conto di poter potenziare allo stesso modo anche il proprio cervello. Ecco appunto un intero articolo all'interno, che all'interno viene intitolato Beautiful Mind, non spegnete il cervello, si può sempre imparare. E a proposito di cambiamenti in meglio, c'è un articolo sul Corriere della Sera, una lobby per il succo esotico nei guai, la bevanda miracolosa, l'antitrust ferma il reclutamento di questa bevanda che si chiama Xango, perché appunto spesso le bevande le più nuove vengono spacciate come miracolose, però la nostra antitrust ha deciso di fermare il reclutamento di questa rete di venditori perché dice fanno promesse un po' ingannevoli. E poi a proposito di Viversani, una notizia curiosa che ho trovato solo sul Corriere della Sera: scarpe da tennis e yogurt, gli aiuti di Londra per vivere sani, tagli del 20% sul prezzo dei prodotti più salutari. Iniziativa del governo finanziata dalle multinazionali che producono questi prodotti, e si spera appunto che con un costo minore la gente sia più invogliata a comprare yogurt, scarpe da tennis, non per così per usarle per stare più comodi, ma per andare a correre magari. E a proposito invece di rialzi, di rincari, sul Corriere della Sera un articolo di Gianluigi Paracchini a pagina 23, Kashmir super rialzi, così sta finendo l'era del lusso democratico. Dicevamo prima allarme materie prime, da molti mesi che si parla appunto di anche la lana, il Kashmir, i filati nobili sono materie prime, e non è, nel 2011 si prevede un rincaro del 20% della materia prima, e questo verrà naturalmente scaricato sul prodotto finito, sul costo del prodotto finito, quindi anche nei casi in cui il cashmere magari si può comprare in catene come quelle di cui parlavamo prima, Zara o H&M, però anche in quel caso presumibilmente saranno costretti ad alzare i prezzi. Un altro articolo sulle tendenze: la libreria sarà un social network, sempre dal Corriere della Sera, un articolo di Massimo Gaggi, l'ebook, sapete, il libro elettronico, costringe a ripensare le strategie commerciali per sopravvivere. Lo spunto di questo articolo è la notizia che anche Borders, che è l'altra grande catena di librerie dopo Barnes & Noble, che era fallita qualche mese fa, anche in questo caso si profila il fallimento della catena Borders, e quindi gli Stati Uniti, che sempre non forse sono il paese che ha meno paura dei cambiamenti, almeno secondo me, dicono gli USA sperimentano nuove soluzioni, ci spiega Massimo Gaggi. In questo caso naturalmente la frontiera sono gli ebook. Ma un altro articolo divertente dalla Repubblica di Federico Rampini, richiamato in prima pagina e poi anche qui una pagina intera all'interno, pagina 27, vivere con 100 cose cresce la tribù dei nuovi minimalisti, basta schiavitù degli oggetti, bisognerebbe avere un armadio semivuoto, pochissimi libri, film, avere tutto archiviato nell'iPhone, nell'iPad o nell'iPod, ridurre al minimo gli oggetti di casa e via così. E qui c'è un piccolo intervento di Mauro Corrado Corona, uno scrittore, ma soprattutto famoso perché vive nei boschi e ci racconta sempre di vivere con poco. Mauro Corona, boscaiolo, autore di bestseller sul valore dell'essenziale, invita a togliere l'inutile per vedere il mondo. Dice, virgolettato, un pasto al giorno e il vino. Su tutto il resto si può ragionare. Questo ci spiega Mario Corona. E poi vi segnalo altre due notizie che ho trovato su due giornali diversi. Il giornale ci spiega che a Milano si sta pensando di armare i vigili urbani con lo spray al peperoncino, perché potrebbe essere appunto un'arma tutto sommato meno violenta di altre per fronteggiare le aggressioni, e questa sarebbe una prima soluzione. Invece il Secolo XIX di Genova, il giornale di Genova, ci spiega che invece forse a Genova verranno schierati quelli che il giornale di Genova chiama i supervigili, avranno in dotazione spray, come quelli di Milano, casco e una tuta speciale contro la guerriglia da Movida. Movida, naturalmente, quel fenomeno che dopo una cert'ora nelle grandi città c'è, cioè delle persone che affollano i locali e poi magari escono dai locali ubriache e rischiano di fare dei grandi danni. Vi riporto poi un'altra notizia che c'è come fotonotizia sul Corriere, come piccolo articolo sulla Repubblica, mentre c'è un'intera pagina sulla Stampa, pagina 16, strage di cani nella tenuta della regina. Avrebbero infatti, la regina ha perso 6 in un colpo solo dei suoi amatissimi cani, i corgi. Vomito e diarrea, poi uno stato letargico, la morte in 24 ore. Forse è un veleno, un batterio o un fungo ignoto. Elisabetta teme per i suoi adorati corgi e ha chiesto all'Animal Health Trust un'inchiesta sull'accaduto. E poi una curiosità, sempre dalla Stampa, in questa pagina dedicata ai cani della regina: catturata nel Kent una volpe gigante. Sapete che uno dei tanti fenomeni legati all'espandersi delle città, che le città non sono più città ma diventano vere e proprie conurbazioni e si allargano alle campagne, è che molti animali arrivano fino in città. Negli Stati Uniti capita con gli orsi e in Inghilterra spesso capita con le volpi, che in città addirittura per esempio sono attirate dai cassonetti dell'immondizia. In questo caso appunto magari diventano anche più grandi del normale. Sulla Stampa si torna su quella che viene sempre chiamata emergenza rifiuti a Napoli, e poi magari sparisce dai giornali, affolla i giornali per qualche giorno e poi sparisce e nessuno sa più se l'emergenza è finita o se semplicemente non se ne parla più. E quindi la Stampa titola: rifiuti ancora blocchi a Chiaiano, Napoli roghi per fermare i mezzi, prosegue la raccolta straordinaria. Nuova protesta, spiega la Stampa, nell'unica discarica veramente funzionante in città. E la Stampa ha anche una pagina intera di approfondimento, la notizia comunque si trova su quasi tutti i giornali, su tutti i giornali, sulla decisione che è arrivata l'altro ieri del TAR della Lombardia, che ha annullato quelle che erano le linee guida del presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni sull'aborto. In Lombardia non cambia nulla, ribatte però Formigoni al TAR che aveva bocciato le linee guida più restrittive volute dalla regione. E qui ci sono tre posizioni diverse sul dibattito sulla questione dell'aborto e appunto le linee guida della Lombardia. C'è un intervento di Alessandra Mussolini: non sono argomenti da consigli regionali, dice quella che viene definita dalla Stampa l'eretica del PDL. Poi c'è un intervento del cardinale Elios Greccia: la scienza cambia, la legge si adegui. E poi di Livia Turco: la 194, la famosa legge sull'aborto, va applicata e non interpretata. Dal Sole 24 Ore vi segnalo un inserto intero dedicato alle successioni, e con tutte le novità del 2001. E invece scusate, stavo guardando l'ora perché il nostro tempo è quasi finito, però oggi Michael Schumacher compie 42 anni, e il giorno che ha tantissimo spazio dedicato allo sport oggi ci spiega, a 42 anni sfida il baby campione Vettel, che naturalmente è l'enfant prodige della Formula 1. Michael Schumacher sta ancora tentando un ritorno e vedremo vedremo insomma come finirà questo 2001, se sarà l'anno in cui magari poi deciderà di ritirarsi o di continuare a correre. Sempre dal giorno invece un altro grande campione, Tiger Woods, uno degli sportivi più pagati della storia, ma sappiamo l'anno scorso ha dovuto divorziare dalla moglie perché aveva scoperto le sue molteplici infedeltà, e ora aveva avuto una crisi proprio come sportivo. Woods in rosso, salvato dagli sponsor nel 2010, zero vittorie, 50 milioni di dollari in meno appunto di premi di premi vinti come golfista, ma le aziende non mollano, resta il più pagato. Dall'unità invece sembra una notizia di sport curiosa, un racconto di Francesco Caremani a pagina 42 che racconta la sesta edizione che si è svolta a Karachi in Pakistan della Pakistan Premier League, il torneo femminile di calcio a cui partecipano squadre venute da tutto il paese sfidando divieti e pregiudizi. Ci sono due foto di ragazze impegnate in queste partite, in queste partite di calcio della Pakistan Premier League. Non si parla tanto di calcio femminile neanche in Italia, anche se esiste un vero e proprio campionato, ma invece è bello appunto che esista anche in Pakistan e che queste ragazze possano giocare senza velo. A volte abbiamo visto le sportive di questi paesi, del Pakistan, ma non soltanto, che sono costrette comunque a gareggiare tutte coperte, quindi anche con un velo che magari lascia scoperto il viso, ma che comunque non è come giocare o fare uno sport libere da inutili vestiti. Vi segnalo un'ultimissima cosa: il Foglio del lunedì, sapete, raccoglie il meglio dei giornali della settimana precedente. Anche qui, ecco il 2011, e secondo il Foglio la vera notizia da tenere presente nel 2011 è che saremo in 7 miliardi, cioè il mondo continua a crescere. È veramente finito il nostro tempo, mi spiace perché c'erano ancora tantissimi articoli interessanti. Comprate più giornali possibili, io vi auguro una buona giornata e un buon anno. 24 mattino. L'intervista. Le 8 e 19 minuti, ben ritrovati, buon anno da Laura Bettini per l'intervista di oggi. Sentiremo tra pochissimo quale sarà il nostro ospite, però una piccola premessa la vogliamo fare. L'avete sentito nel GR un anno fa, c'è stato l'attentato alla procura di Reggio Calabria, e questo che è avvenuto allora e quello che è avvenuto nei mesi successivi testimonia una realtà ancora difficile, anche se fortunatamente aumentano i segnali di risveglio della società civile. Ebbene, oggi con l'intervista restiamo un po' in questo solco, lo solco delle minacce e anche però della solidarietà. Con noi abbiamo Domenico Pappaterra, attualmente presidente del Parco Nazionale del Pollino. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. È un piacere averla con noi. E noi l'abbiamo contattata qualche giorno fa quando lei ricevette delle minacce di cui poi parleremo. Allora non era tempo di parlare, ci disse. Adesso invece la situazione è un po' diversa. Forse per lei è un po' più leggera, tra virgolette, viste i grandi segnali di solidarietà che ha ricevuto dopo quelle minacce. Ma non c'è dubbio, quella forte solidarietà ricevuta da me e dalla mia famiglia ci ha incoraggiato a superare quel momento che per noi è stato drammatico, perché le modalità con cui sono state perpetrate queste azioni hanno coinvolto pienamente la mia famiglia. Mio figlio, addirittura il più piccolo di 10 anni, ha rinvenuto lui la lettera con il proiettile, e quindi naturalmente lascio immaginare a tutti il dramma che si è consumato. Però proprio come diceva lei, questa bellissima solidarietà da tutte le parti, dal mondo delle istituzioni, della politica, dell'associazionismo, del sindacato, e tanti tanti amici ci hanno incoraggiato in questi giorni ad affrontare con più razionalità questa vicenda. Certo, Domenico Pappaterra, ricordiamo, dirigente politico del Partito Democratico, lei ha 52 anni, di estrazione socialista, leggo dalla biografia del sito, quindi nulla di privato, insomma, quello che lei stesso ha segnalato di sé come elementi della sua carriera. Estrazione socialista, deputato fino al 2006, sindaco del suo comune, Mormanno, provincia di Cosenza, giusto? Sì, provincia di Cosenza. Già consigliere regionale della Calabria, poi assessore regionale all'ambiente e beni ambientali, parchi e aree protette, tutela delle coste, urbanistica, insomma una carriera spesa molto nel mondo nell'ambiente, ecco. Sì, è stata un po' la traccia che ha accompagnato negli ultimi 10 anni, 15 anni la mia attività, perché prima da assessore regionale, poi sono stato 5 anni nella 14ª legislatura in Parlamento all'interno della Commissione Ambiente, e poi questo incarico alla guida di uno dei più grandi parchi d'Europa, che è il Parco Nazionale del Pollino. Quindi è un impegno a tutto campo su questo fronte, anche se naturalmente il mio ruolo anche di dirigente politico mi porta ad affrontare anche le altre problematiche, però questo è un po' il percorso più accentuato della mia attività recente. Senta, lei forse come presidente di un parco in quell'area tra Calabria e Basilicata ha una vita un po' più difficile magari di altri colleghi, quando si confronta con gli altri, magari con qualcuno che lavora sulle Alpi, che cosa vede di differente? Guardi Laura, non c'è ombra di dubbio, è proprio così. Io appena sono arrivato in Federparchi, la Federparchi, come i radioascoltatori di Volti sanno, è l'associazione che mette insieme tutti i parchi italiani, sia i parchi nazionali che quelli regionali e le aree marine protette. Arrivato lì ebbi una doppia sensazione. La prima, c'era qualche collega del nord che mi chiedeva: ma come si fa ad amministrare un parco in Calabria? E già questa domanda, come dire, mi lasciò molto stupito, perché lo stereotipo che valica i confini della mia regione purtroppo è quello di una regione dove è complicato e quasi impossibile poter amministrare nella correttezza, nella trasparenza, nella linearità, per i forti condizionamenti che mette in campo la criminalità organizzata. In secondo luogo anche questo contrasto, quando io sentivo, una delle mie prime visite ad un parco esterno al mio fu al bellissimo e straordinario Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, peraltro diventate di recente patrimonio dell'UNESCO, mi trovai in un'assemblea e lì c'era l'assessore regionale del Veneto, credo fosse uno della Lega, si lamentava per gli eccessivi vincoli che in quell'area protetta erano messi in campo. A un certo punto io chiesi: ma quanti abitanti ci sono all'interno di questo parco? E mi dissero più o meno una quarantina. Io le voglio dire, a confronto col mio parco, il mio parco è il parco più antropizzato d'Europa, al suo interno ci sono 170.000 abitanti, ai quali naturalmente da 15 anni noi abbiamo posto sulla loro testa vincoli di maggiore, certo, rigore, e quindi non c'è dubbio che possono esserci anche alcune categorie che non hanno sin dall'inizio accettato questa impostazione, per quanto negli anni abbiamo tutti lavorato per superare questa logica farisaica, questa disputa tra i fautori del sì e del no, e abbiamo ragionato per mettere in campo anche azioni di crescita e di sviluppo, perché i parchi non possono essere solo elementi di... Certo, hanno la loro missione principale, la tutela e la conservazione, però in un parco, ecco, come il mio, ci sono decine di comuni che sono all'interno proprio del parco. Quindi parco... è un doppio problema sostanzialmente, sì, quello tu... della gestione del parco, ma anche della gestione di coloro che vivono nel parco e quindi hanno bisogno di tutto quello che hanno bisogno dei cittadini. Perché la cosa che a noi ci chiedono i nostri cittadini è questa, va bene, gli agricoltori, noi da un lato abbiamo accettato questi vincoli, per cui ci assoggettiamo anche ad un regime che prevede ovviamente un controllo maggiore, perché poi la parola del parco è sempre quella finale rispetto a tutto il bailame di autorizzazioni che spesso vengono richieste, però fateci capire, ecco, noi, ecco, stando all'interno del parco, quali possono essere i benefici, e da lì sono venute fuori. Io sentivo parlare poco fa, quando mi avete messo in onda, di progetti di qualità con riferimento alle attività che si stanno realizzando a Cortina e da altre parti. Ecco, noi abbiamo provato per esempio a mettere in campo tutta la filiera delle produzioni di qualità di questo territorio, e sotto questo profilo incentiviamo col marchio del parco, con i fondi europei che possono essere utilizzati sia in Calabria che in Basilicata, perché il Pollino è un parco che è interregionale, è a cavallo tra queste regioni, proprio per dare al mondo agricolo, ovviamente quelli che mettono in campo produzione di qualità, forti incentivi alle loro attività. Senta, le voglio fare due domande, purtroppo il tempo corre, quindi le chiedo brevemente di rispondere. Vedo che il presidente della regione Scopelliti dice: vada avanti Papaterra, con la certezza che le istituzioni non lo lasceranno da solo. Fino adesso si è sentito solo oppure no? Guardi, al momento assolutamente no, questo voglio dirlo. Poi purtroppo spesso può accadere che, passata la fase emotiva, queste vicende finiscano, come spesso accade, nel dimenticatoio. Ma prima di questo evento si era sentito solo? No, assolutamente no. Io da questo punto di vista, ripeto... Lavora di concerto, insomma. No, c'è un forte concerto sia con la mia regione che con quella della Basilicata. Sia il presidente Scopelliti che il presidente De Filippo sono molto molto vicine all'attività che noi portiamo avanti e svolgiamo. Voglio dire solamente un dato però, qui in Calabria con questo episodio che mi ha riguardato siamo nell'anno 2010 al 115° episodio di intimidazioni ad amministratori pubblici. Ecco perché io colgo l'occasione anche di questa vostra intervista per rivolgere a tutte le autorità, anche al Ministro dell'Interno, la preghiera di non abbassare la guardia. Nei giorni scorsi un sindaco, un'intera maggioranza di un comune all'interno del parco, il comune splendido comune di Sant'Agata d'Esaro, tutta l'amministrazione comunale, giovani, l'età media degli amministratori 25 anni, ragazzi che si erano prestati, come dire, per mettersi al servizio della loro comunità, sono stati obbligati alle dimissioni perché il sindaco era il decimo attentato che riceveva. Ecco, questo voglio dirlo perché poi quando si dice vi sentite soli o meno, io vorrei che lo Stato, ecco, accompagnasse, aiutasse e proteggesse anche questo lavoro, altrimenti qui il rischio che le energie migliori lasceranno il campo a quelli che invece vogliono portare avanti azioni di protervia. In conclusione, una gestione dei parchi come quella che sarà allo Stelvio, cioè affidata a province, regioni, è qualcosa di, secondo lei, auspicabile o no? Ma io la trovo profondamente sbagliata. A me è sembrato, lo dico con molta franchezza, il prezzo che si è voluto pagare a chi all'interno del Parlamento rappresenta posizione di forte autonomia. Io credo che il mondo dei parchi deve avere e deve essere gestito con una visione profondamente unitaria, con il Ministero dell'Ambiente che possa coordinare appunto le politiche di conservazione, di tutela e di sviluppo di tutte le aree protette di concerto con la Federparchi. E questo negli ultimi tempi è avvenuto molto positivamente col ministro Prestigiacomo, anche la battaglia che è stata fatta per evitare i tagli che avrebbero distrutto e cancellato i parchi italiani è stata fatta appunto di concerto. A me sembra queste forme di regionalizzazione o addirittura in questo caso di provincializzazione le trovo sbagliate perché viene meno quella che deve essere una logica unitaria e di intenti univoci tra tutte le aree protette italiane. Domenico Pappaterra, presidente del Parco Nazionale del Pollino, la ringrazio per essere stato con noi. Ringrazio io voi per questa bella opportunità, grazie. E Radio 24 come sempre è a disposizione in queste situazioni per aiutare e accompagnare il cammino di coloro che vogliono la legalità. Pubblicità e poi ci ritroviamo. 24 mattino. Buongiorno, ed è il momento quindi adesso di Bianco o Nero. Parliamo di cose, di soldi privati per sostenere i servizi pubblici. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? È una pratica ormai diffusa chiedere a imprese private di sostenere economicamente i servizi pubblici in cambio di spazi pubblicitari. A Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Venezia e in numerose altre città i soldi privati entrano e sostengono scuole, giardini, pasti per i senza tetto, ristrutturazioni di monumenti storici, un modo insomma per fare quadrare i conti dopo anni di tagli alle amministrazioni locali. Molti sono favorevoli, altri invece si domandano: ci vuole un limite anche etico alla sponsorizzazione? Voi come la pensate? Potete votare sul sito internet di Radio 24, potete chiamarci all'800 24 00 24 o inviare i vostri sms 349 238 6666. Con noi c'è l'assessore provinciale all'istruzione della provincia di Barletta, Andria e Trani, Pompeo Camero, buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno ai radioascoltatori. Non è la prima volta che lo ospitiamo, ma la sua idea ovviamente ebbe molto, molto riscontro e anche Radio 24 volle parlarne. Lo ricordiamo agli ascoltatori, la sponsorizzazione degli arredi scolastici per l'appunto nella provincia di Barletta, Andria e Trani. C'è stato recentemente un altro passaggio di questo caso perché il caso finì davanti al TAR della Puglia che ora ha dichiarato inammissibile il ricorso che era stato presentato dalla CGL e da altre associazioni di genitori e studenti e quindi via libera alle sponsorizzazioni. Contento? Assolutamente sì, ma me lo sarei evitato ben volentieri. Il problema è che insomma mi ci hanno portato in questa vicenda mio malgrado, ecco. Questo io avrei preferito invece che la questione potesse essere risolta attraverso invece un incontro con i ragazzi che francamente tarda ancora ad essere insomma organizzato sia da loro, ma io insomma lei a disposizione lei a disposizione sì, quindi se qualche ragazzo ci ascolta può cominciare a indire questa a convocare questo incontro. Poi abbiamo in linea Sandro Simeonato, che è il vice sindaco di Venezia e assessore al bilancio. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti voi, grazie. A Venezia c'è grande esperienza soprattutto in campo artistico, di sponsorizzazioni per le ristrutturazioni, no? Sì, beh, diciamo di sì, insomma. Altri progetti però non ne avete ancora, di tipo la scuola, direi, come quello di che abbiamo sentito di Barletta, no? No, direi che in questo momento no, però sai, il rischio è dietro l'angolo, nel senso che le politiche che sono svolte a livello nazionale di tagli pesanti agli enti locali rischiano poi insomma di far sì che la fantasia degli enti locali si sviluppi al punto tale da rispondere ai bisogni dei cittadini, anche inventandosi strumenti che apparentemente non sono di normale amministrazione, diciamo così. Voi al momento non avete un limite alle sponsorizzazioni, cioè il tipo di aziende che possono sponsorizzare a Venezia o no, ad esempio? Noi diciamo che facciamo una selezione rispetto alle proposte. Venezia chiaramente è una vetrina internazionale, un palcoscenico su cui si rivolgono tanti soggetti che pensano appunto di poter utilizzare l'immagine della città. Facciamo una selezione rispetto alla qualità della proposta pubblicitaria fatta, insomma, ecco, sostanzialmente questa, che deve essere di qualità come alto il livello della città. Glielo chiedo perché a Roma esiste un comitato etico, o almeno dovrebbe esistere un comitato etico, per valutare le richieste di sponsorizzazione dei privati sulle attività del comune. Ha un mandato fiduciario però che è legato a quello del primo cittadino, fu istituito ai tempi di Veltroni e per ora, per quanto io sia riuscita a vedere, il sindaco Alemanno non ha rinnovato il mandato al comitato etico. È così, Alberto Castagnola? Buongiorno. Esattamente così, però... Lei è un economista e lavora alla Città dell'Alta Economia di Roma, quindi un po' ci farà uno spaccato su questo spicchio romano, ma non solo, insomma, della vicenda, cioè fin dove si può arrivare con la sponsorizzazione da un punto di vista etico. Ecco, vorrei dire a un altro vero che anche durante la precedente amministrazione c'era ricorsi a dei trucchi, nel senso che il Comune aveva creato degli enti che pur essendo totalmente a capitale comunale, diciamo, potevano concedere le sponsorizzazioni, quindi in sostanza le aveva sottratti all'azione del regolamento che era stato invece approvato dal Comune stesso. Ah, quindi lei ci dice, insomma, il comitato c'era ma non efficace? Diciamo lentamente svuotato. Ecco. Del suo significato, ma com'era nata questa necessità? Era nato perché erano stati concessi delle sponsorizzazioni a una serie di imprese che ovviamente anche con i criteri dell'ONU non erano, come dire, accettabili. Cioè, un'impresa che sfrutta i lavoratori in qualcuno dei suoi paesi o che produce dei prodotti che non sono accettabili sul piano della buona alimentazione può essere considerato uno sponsor accettabile. Quindi l'ONU aveva dato una serie di indicazioni, c'è una direttiva particolare, e aveva anche elencato questi limiti, diciamo, questi paletti messi alle imprese. E a questo punto il gruppo di cui facevo parte anch'io, sì, ha cercato di... Ah, no, lo dica tranquillamente, insomma. Sì, no, facevo parte, era una delle cose che facevamo come economia alternativa. E pensavamo che fosse importante stabilire questi paletti, quindi significa, attenzione, non giudicare l'attività economica in senso stretto di quella impresa che viene lasciata libera, ovviamente, e si dice che il Comune ha un obbligo morale, cioè l'ente pubblico ha un obbligo morale di non scegliere delle imprese che non si comportano secondo certi criteri. Questi criteri vengono stabiliti in anticipo, quindi da cui è nato il regolamento, in maniera che le stesse imprese possono decidere se partecipare o meno, cioè se sottoporsi o meno alla valutazione di un comitato e comunque alla valutazione politica dell'ente pubblico. Quindi è una specie di presa di atto del fatto che l'ente locale non può operare a tutto campo senza avere dei paletti. Assessore Camero, la richiamo in causa, visto che voi sarete i prossimi a dover scegliere degli sponsor. Voi su questi temi vi state confrontando? Noi abbiamo in questo momento, diciamo, scoperto una sorta di grimaldello che ha un po' scardinato una convinzione, per la verità abbastanza diffusa, quella che le sponsorizzazioni fossero un po' alimentate quasi dal denaro del diavolo. In verità io tengo a che invece di questa sentenza, che in certo senso è un barlume di luce, un grigiore che negli ultimi tempi abbiamo incombeva insomma su di noi, perché io mi sono limitato nella valutazione tecnica preliminare sostanzialmente a rifarmi ad un impianto normativo che risaliva, che devo dire, all'epoca di Romano Prodi, mi riferisco alla legge 449, che era la legge di stabilizzazione, l'articolo 43, che sì, sostanzialmente ha introdotto per noi enti locali la possibilità di utilizzare le sponsorizzazioni, peraltro ripresa anche nel testo unico degli enti locali. Approfitto in un certo senso per rispondere anche per far da sponda a Castagnola quando riferisce in termini di supporti regolamentari del Comune di Roma come in effetti si possa e si debba interagire, perché l'articolo 119 del 267, ovvero sia proprio il testo unico delle autonomie locali, che vale tanto per i comuni, che ricordiamolo ai nostri radioascoltatori, sono enti di erogazione di pubblici servizi e lo sono ugualmente validi per noi province, che invece rappresentiamo un po' un assetto intermedio. Detto questo, caso, scusi se la fermo dalla questione, ecco, torniamo al nostro specifico caso, altrimenti l'ascoltatore qui ci si perde con tutti questi decreti, testi, eccetera eccetera. Voi appunto vi state dando un regolamento, posto che lo farete, vi state regolando in qualche modo per scegliere ad esempio anche fino a che punto vi sponsorizzeranno o che tipo di aziende saranno ammesse all'interno delle scuole, insomma, a porre i loro marchi? Per la verità il nostro avviso già conteneva una clausola di salvaguardia, perché la propaganda, per esempio di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa, oppure collegata all'uso di alcolici o di tabacco, materiale pornografico, era già ovviamente esclusa da queste possibilità. Al di là di questo, però, ecco, era quella partecipazione alla quale noi vorremmo si potesse addivenire al più presto per, insomma, in un certo senso rileggere un po' la scuola come un servizio pubblico partecipato, non per venire fuori con uno slogan come tanti altri, ma in verità non è poi, è, direi, salutare il fatto che ci sia stata tanta interlocuzione su questo argomento, segno che c'è anche grande interesse sui temi dei servizi pubblici e in particolar modo della scuola. Vi ricordo a tutti gli ascoltatori, per votare il nostro sito internet radio24.it, finanziamenti privati per sostenere servizi pubblici, che ne pensate, oppure 800 24 00 24. Abbiamo ancora il tempo di parlare prima della viabilità, poi ovviamente proseguiremo con l'assessore e vice sindaco di Venezia Simionato. Fin qui lei come la vede, visti i due interlocutori che l'hanno preceduta? No, ma io ritengo che il dibattito sia assolutamente interessante. Ripeto, credo che gli enti locali siano sempre più costretti a fronteggiarsi con queste tematiche, insomma, ad aprire delle prospettive. Ma voi fino a che punto sareste disposti, non so, a sponsorizzare la scuola o che ne avreste bisogno, diciamo, anche, insomma? Diciamo che in questo momento noi questo tema non lo vogliamo nemmeno mettere all'ordine del giorno. Abbiamo già delle fatiche, insomma, nel gestire quella che è un intervento, diciamo così, strutturale legato al mantenimento fisico della nostra città e quindi anche la possibilità di recuperare fondi, come peraltro tra l'altro avviene attraverso fondazioni internazionali da tantissimi anni, insomma perlomeno dal 66, dopo la grande alluvione, la grande acqua alta che ha colpito la nostra città. Ma credo che sia sostanzialmente corretto l'approccio che si era data a Roma, insomma, rispetto a queste tematiche, cioè nel momento in cui si va ad intervenire su servizi veri e propri, insomma, rivolti ai cittadini, quello della caratteristica etica, insomma, della ditta che si propone sia uno dei temi fondamentali e credo sia correttissimo regolamentarlo nella tutela di quello che è per esempio il diritto al lavoro, ma anche del lavoro minorile in particolare, insomma, di tutti i temi legati allo sfruttamento, in particolare oggi in cui insomma la globalizzazione ci porta ad avere aziende che producono in tutto il mondo e spesso fuori anche dalle regole che noi abbiamo insomma nei nostri paesi occidentali. Quindi per lei l'aspetto etico è importante da tenere in considerazione. Direi assolutamente di sì. C'è poi un altro tema che sul quale vorrei che tutti quanti pensaste durante la viabilità, che è quello della percentuale di intervento del privato. Sentiamo la viabilità e poi torniamo insieme. Io sono o blanco o nero. Gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? E allora torniamo insieme. Con noi c'è Umberto da Milano. Buongiorno, un ascoltatore. Ci dica la sua. Bianco buongiorno o nero? Buongiorno. Niente, io credo che così il tema sia mal posto, perché non è una questione se accettare o meno i privati. La questione è che i soldi per la scuola, che dovrebbe essere una priorità, evidentemente mancano o in qualche maniera vengono usati diversamente, e i privati vengono usati per mascherare questa cosa. Quando abbiamo dei costi elevatissimi della politica, abbiamo costi e sprechi di tutti i tipi, secondo me noi paghiamo tasse più di prima, e vogliamo assolutamente che ci siano soldi pubblici per la scuola in primis. Poi per il resto si può vedere. Io temo che questo sia un tema per nascondere il fatto che i soldi vengono usati per altro. Beh, il suo timore insomma non può essere affrontato così su due piedi. Credo più che altro che sia interessante l'aspetto appunto di come affrontare la carenza dei fondi per certi servizi pubblici. Questo forse possiamo dircelo anche adesso. Torniamo ai nostri ospiti. Alberto Castagnola, secondo lei che percentuale appunto può essere disponibile per una sponsorizzazione privata all'interno di un servizio pubblico? C'è un limite? Ma io, essendo un economista, sono assolutamente contrario ai limiti quantitativi che poi possono essere aggirati. Ma se io faccio una scuola dove quasi tutto me lo fornisce uno sponsor, insomma, non è un po', questo, un po' chiaro, troppo? Però onestamente, adesso sentiamo nel merito dei timori. Il timore è questo: se sul banco sul quale un bambino sta studiando c'è il marchio dell'impresa X o Y, quel ragazzino sarà indotto a comprare quei prodotti? Cioè l'elemento economico reale, cioè quello sottostante, è questo, perché si sta parlando di pubblicità da parte delle imprese, le imprese fanno pubblicità per vendere i prodotti. Allora questo significa inserire, cioè quindi tutto il discorso che stiamo facendo oggi significa inserire fin nella scuola o anche in altre condizioni di disagio pubblico, cioè un ospedale, pronto soccorso, non so, cioè sottolineare l'aspetto di un'impresa piuttosto che di un'altra significa introdurre un elemento assolutamente distorsivo rispetto al concetto stesso di servizio pubblico. Allora, questa è la storia che c'è sotto, quella importante, cioè il nocciolo duro sul quale si deve parlare. E il fatto che in questo momento sappiamo tutti che i comuni sono stati tagliati i fondi, che i fondi per certi settori sono stati tagliati in maniera drammatica, e questo è chiaro che questo è il problema, lo sfondo, però trovare la strada dell'apporto privato mi sembra veramente molto pesante. Poi ci sono che strada troviamo però a questo punto? Prego? Che strada troviamo però a questo punto? Deve essere aumentata la pressione per difendere certi stanziamenti e per aumentare quelli assolutamente necessari. Cioè l'idea che si stia ricorrendo ai privati per evitare che il Colosseo vada a pezzi, non parlo di Pompei, no? Veramente è drammatico. Cioè, stiamo discutendo di cose orribili, non possiamo accettare il fatto di sapere che con un 5% in più di privati forse Pompei si salvava. Cioè, non è questa la soluzione. Il problema è che Pompei è stata abbandonata, il Colosseo evidentemente ci sono dei lavori da fare, nessuno è in grado di farli, via dicendo. Quindi rifare la scaletta delle priorità, insomma. Delle priorità, ma ci sono delle priorità assolute, cioè la difesa del patrimonio artistico, del patrimonio del territorio culturale generale dell'Italia. Noi siamo il 40% dei monumenti del mondo sta in Italia. Ma io penso che se noi rifacciamo questa scaletta e mettiamo in cima il territorio, i beni artistici, e non rimane più niente per le scuole, credo. Sì, ma è lo... No, mi rendo conto, però insomma qualunque cosa noi mettiamo in cima, qualcosa rimane fuori. Sto dicendo che se poi noi insegniamo la storia dell'arte ai ragazzini, quando escono trovano delle rovine, capisce che c'è una contraddizione in termini, no? Cioè, non possiamo accettare questo tipo di conflitto. Siccome il tema scuole scatena sempre un po' di attenzione polemica, Susanna da Bologna, buongiorno. Buongiorno, lei come la vede? Vedo che vuole intervenire sulla questione scuola in particolare. Allora, per quanto riguarda la scuola, ecco, io volevo dire una cosa molto semplice. Io ho avuto due figli, hanno fatto entrambi il liceo e la mia esperienza è stata che all'interno delle classi circa l'80-85% degli studenti andava a lezione di almeno una o due materie, con costi tra i 25 e i 35 euro l'ora, tutti ovviamente rigorosamente pagati in nero. Io credo che se avessero chiesto a noi genitori di pagare al pomeriggio l'insegnante, che già diciamo era l'insegnante regolare del mattino, per dare delle lezioni aggiuntive ai nostri figli, io credo che tutti i genitori sarebbero stati d'accordo, anche perché comunque questo costo era un costo già presente nel 90-95% degli studenti che frequentavano la scuola, o inglese o matematica o latino o greco, quello che vuole. Sì. Quindi bisogna uscire un po' da queste ipocrisie, insomma, questi all'interno della scuola pubblica l'intervento ormai delle famiglie è già in essere, quindi sì, però mi perdoni, se voi aveste dato questo contributo invece che all'insegnante privato, alla scuola, comunque avrebbe pagato un insegnante della scuola, non certo, i banchi. Certo, infatti è ben quello che dico, cioè pagare l'insegnante della scuola a carico dei genitori. I genitori sarebbero stati contentissimi di pagare l'insegnante della scuola, che tra l'altro era quello che dava anche faceva il programma, sarebbe anche più regolare, più fatto bene, insomma. Quindi l'insegnante della scuola che certo fa due ore al pomeriggio di recupero e meglio così i genitori, capisci? E i genitori tranquilli perché i figli sono lì che studiano con un insegnante della scuola qualificato. Grazie a Susanna da Bologna. Invece vice sindaco di Venezia Simonato, se si rifà la scaletta secondo quello che diceva Castagnola, lei è felice, insomma, prima i beni culturali e poi tutto il resto. No, direi che non è così, non è che io sarei più felice se passassero in testa. No, ci mancherebbe un modo di dire, però insomma, no, ecco, certo. Se si dovesse rifare l'elenco in quella direzione, Venezia sicuramente ne trarrebbe un gran beneficio, perché per voi è un costo immenso. Questo è un costo che come ente locale, per noi esclusiva, se fossimo solo noi ad intervenire, sarebbe impossibile da sostenere, insomma, anche perché ricadrebbe esclusivamente sui nostri concittadini, quando poi in realtà questa è una città universale ormai, insomma, no? Quindi è un patrimonio comune del mondo. Per quello stiamo anche lavorando, insistendo sulla opportunità di una riscrittura della legge speciale che in qualche maniera in questi anni ha aiutato a svolgere queste attività e a far sì che poi i finanziamenti provenienti dal territorio fossero effettivamente indirizzati a gestire servizi rivolti alla nostra cittadinanza. Dopodiché è evidente che in questo momento rifare la scaletta delle priorità sarebbe, credo, un dovere politico, insomma, ma su tanti fronti, non è dell'ente locale esclusivamente, insomma, io credo che noi siamo l'ultimo anello di una catena che evidentemente ha stabilito e ha scelto criteri di indirizzo partendo dall'alto, insomma, e noi oggi stiamo sul territorio a chiudere le falle che drammaticamente si aprono ora di qua, ora di là, all'interno della gestione della cosa pubblica, insomma. Poi siete un po' tra l'incudine e il martello, perché insomma poi c'è il cittadino da sotto che vuole il servizio, comunque sia. Legittimamente chiede il servizio, perché il signore di prima da Milano diceva, insomma, ma noi paghiamo le tasse, chiediamo allo Stato che ci garantisca la qualità dei servizi che vengono erogati, insomma, poi credo che questo sia corretto dal suo punto di vista. È drammatico per chi poi invece fa l'esperienza dell'amministratore e quindi si trova a confrontarsi quotidianamente con questa contraddizione, una richiesta di servizi di qualità e risorse che poi per erogare questi servizi non ci sono, e quindi tenta anche magari di inventarsi strumenti che a volte possono anche apparire non non etici, insomma, e forse anche lo sono. Anch'io sarei d'accordo che in alcuni settori sarebbe meglio non utilizzare questi strumenti, tipo. Però quale alternativa c'è, lei dice? Forse se in altri settori si spinge con più significativamente, più forte sulla sponsorizzazione, magari le risorse dell'ente locale possono essere destinate in maniera più serena alla gestione della scuola materna piuttosto che del nido, piuttosto che nel caso della provincia delle scuole superiori. Insomma, io credo che questa potrebbe essere un'opportunità, cioè in quei luoghi in cui il servizio non è direttamente rivolto alla persona, utilizzare la sponsorizzazione sia probabilmente più semplice, ecco. In questo caso, nel nostro caso, il mantenimento della struttura fisica della città. Camero, io invece, Assessore Camero, le chiedo di ascoltare insieme questa telefonata di Enzo da Roma, che ha una critica abbastanza frequente agli amministratori. Sentiamo. Enzo, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Lei dice cosa bisognerebbe fare? Questo. Gli amministratori locali piangono, e piangono lacrime di coccodrillo, perché poi ci sono fiumi di denaro che escono per consulenze che non servono a nulla, ad amici degli amici degli amici, per fare chissà che cosa. Allora io dico che bisogna prendere questi soldi che si danno in consulenze che non servono a nulla e riorganizzare tutto quanto quello che è servizio al cittadino. Questa è la base di tutto quanto. È inutile che si pianga quando poi alla fine sono loro i primi a sperperare il sì, nostro denaro. Sì, chiaro il concetto. Camero, voi spendete molto in consulenze? Assolutamente, non abbiamo assolutamente grandi spese per le consulenze, tutt'altro. Siamo una provincia giovane, snella, nonostante non dobbiamo rispettare il patto di stabilità interna, riusciamo ovviamente a sopperire utilizzando le nostre risorse interne, intendo dire quello del personale. Ma forse la gioventù un po' vi penalizza in questo senso, essere una provincia recente. Però ci rende ancora più chiare le idee. Per esempio, quando lei parlava di quella percentuale di intervento, detto che se noi cominciassimo a riprendere in considerazione l'aumento delle risorse nel reparto della conoscenza, che è una cosa difficile da farsi per tutta la pubblica amministrazione, allora ci renderemmo conto che in realtà nel tempo le nostre scuole si sono assestate molto in basso, sia strutturalmente sia per suppellettili, e allora è chiaro che qualcosa comunque va fatta e va ripensata. È chiaro, se poi qualcuno ritiene che tutto questo possa servire a svendere la cosiddetta indipendenza conoscitiva, credo che insomma forse dimentichiamo che la scuola è nella società con tutti i suoi pregi, con tutti i suoi difetti, e quindi ecco la possibilità di crescita. Non c'è solo educazione e formazione nella scuola, c'è anche sviluppo dello spirito critico, ecco, questo fa parte della riforma. È per quello lei dice facciamo questa discussione con gli studenti. Assolutamente. La fermo perché c'è Cristian da Milano. Vorrei sentire, prima di chiudere, Cristian da Milano, che finalmente vedo un parere positivo. Cristian, buongiorno. Buondissimo. Dico Christian. Finalmente, perché ne ho visti tanti no fino adesso lei invece dice sì. Ma è assolutamente positivo, perché anche ciò di cui mi occupo è positivo ed è assolutamente necessario ormai per come vengono gestiti gli enti pubblici oppure anche alcuni tipi di operazioni culturali. È necessario e positivo quando però la sponsorizzazione diventa occasione di protagonismo qualificato per l'azienda. Voglio dire che la parola sponsorizzazione ormai anche all'orecchio di alcune aziende è un po' obsoleta. Quindi se l'occasione di protagonismo, quindi di comunicazione, di posizionarsi in un certo ambito è una cosa utile all'azienda e utile al pubblico, all'ente culturale che la riceve, è un'operazione di successo e ben fatta. Se invece è un esborso di denaro fine a se stesso che poi va a finire lì, allora è una cosa che non fa bene né a chi la riceve né a chi la fa, che sostiene un esborso anche importante per la maggior parte dei casi. Certo. Cristian, grazie mille, grazie anche a tutti i nostri ospiti. Alle 8:58:45 si conclude questa puntata di Bianco o Nero, grazie anche a Alessandro Longoni in assistenza, da oggi Antonella Migliaccio, ci ritroviamo domani alla stessa ora.